Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Segrate, alle porte di Milano, vedrà nascere nei prossimi anni quella che con tutta probabilità potrebbe essere la prima Smart City, o meglio il primo Smart District, diciamo quartiere intelligente italiano. Si chiamerà Milano for You e sorgerà su un'area di 300.000 metri quadri, per la precisione tra Segrate, Pioltello e Vimodrone. Il complesso sarà costruito da zero e ciò rappresenta un'opportunità piuttosto rara in Italia, dove la superficie urbanizzata, come noto, è già molto estesa, direi anche ai limiti del sopportabile, per sperimentare quell'approccio integrato fra architettura, infrastruttura energetica e piattaforme digitali che dovrebbe caratterizzare la progettazione di ogni Smart City. Ne parliamo con Marco Sagnelli, architetto progettista di Milano for You, che è in linea con noi. Buonasera, buonasera Sagnelli. Sì, buonasera. Allora Sagnelli, intanto qualche dettaglio in più, insomma, se ci descrive un po' meglio in che cosa consiste questo progetto. Beh, è un intervento che ha un mix funzionale particolarmente pronunciato, nel senso che appunto in quest'area di 300.000 metri quadri, peraltro all'interno della quale insedieremo tutta una serie di edifici con una distribuzione abbastanza sbilanciata per favorire economie di agglomerazione, andrà, cioè concentrerete gli edifici su una superficie che è meno di un terzo di quei 300.000 metri quadri, se ho capito bene. Esatto, sì, tutto il resto saranno aree dedicate a parchi pubblici, a outdoor particolari dove le tecnologie e il digital avranno dei ruoli importanti, e nelle parti invece edificate ci saranno è previsto un mix funzionale composto da residenza con tutta una serie di declinazioni che comunque ingombrerà circa il 60% delle intere capacità edificatorie, il resto saranno uffici, sport, senior apartment, residenze per anziani. Ecco, circa 1000 appartamenti, questo 60% poi di spazio abitativo, giusto? Sì, esatto, okay. Declinati con delle forme diverse tra il social housing, il co-housing, appartamenti per single, sì. Il co-working, ci saranno tutte quelle forme che socialmente oggi sono richieste, diciamo, nella nostra contemporaneità. Ecco, dicevamo che siete partiti da zero e non solo a progettare la parte, diciamo, fisica, i mattoni, diciamo così, ma anche tutta la parte di infrastrutture, soprattutto di infrastrutture digitali. Poi domani con Michele Vianello parleremo specificamente di questa parte. Quindi avete progettato tutto già dall'inizio. Come cambia il lavoro dell'architetto in questo caso? Beh, è stata rimessa in discussione la figura dell'architetto all'interno di questo intervento, perché dal primo giorno io mi sono trovato, con grande piacere peraltro, a lavorare con delle industrie, con delle società di grande respiro internazionale, che sono partner di questo progetto, sono IBM, sono Samsung, che forniranno la parte in infrastruttura tecnologica, no? Assolutamente, assolutamente sì, e le quali hanno dato un contributo proprio anche di carattere progettuale. E la mia prima fase è stata quella dell'ascolto, al seguito della quale fase ho iniziato la progettazione. Ecco, diciamo che può sembrare sorprendente, ma il concetto qui è che la progettazione fisica degli edifici segue magari anche delle necessità del mondo delle infrastrutture, mentre normalmente queste arrivano assolutamente dopo. Sì, beh, in poche parole queste aziende hanno avuto modo quindi sin dall'inizio di poter calare a terra tutte le sperimentazioni che nei loro settori di ricerca e sviluppo da anni fanno. Studiano. Un concetto che mi ha colpito e che mi avete spiegato quando ci siamo conosciuti, me l'avete espresso così: prima viene il piano terra. Che cosa vuol dire? Beh, la nostra preoccupazione, una delle nostre priorità è sicuramente quella di far vivere prioritariamente i piani terra. La vita pubblica, i servizi e tutti i flussi e le dinamiche sociali nelle città vengono al piano terra. Per noi la città si traduce con il piano terra, per cui obiettivo prioritario è portare gente al piano terra, e siamo sicuri e certi che a fronte di questo si riempiranno tutte le case di Milano for You. Insomma, portare le attività, portare i negozi, portare i servizi, portare le imprese. Ecco, questo modello, sì, di Milano for You, che state sperimentando in questa circostanza abbastanza fortunata, diciamo, del Greenfield? È un modello replicabile in un paese già tutto edificato? A mio avviso sì, con la dovuta attenzione e, come si può dire, calma, ma certamente sì. Le grandi città, magari con anche dei rapporti di scala diversi, hanno comunque tutta una serie di vuoti urbani che aspettano delle risposte. Milano for You potrebbe essere intesa come modello di risposta anche per queste aree. Quindi anche magari dove ci sono situazioni, vabbè, diciamo, di abbandono, vecchie aree industriali, lì naturalmente si demolisce, ma fatto questo siamo tornati nella situazione di Milano for You, dopo tutto, no? Assolutamente sì, bisogna essere un attimo più disincantati su certe situazioni, bisogna avere un approccio per certi versi più categorico, ma che porta a un'economia di agglomerazione straordinaria, impensabile per certi versi. Quindi questo approccio più categorico vuol dire demolire e ricostruire? A mio avviso sì. Grazie, grazie Sagnelli. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ma domani parliamo dell'aspetto forse in assoluto più innovativo di questo progetto Milano for You, l'idea di pagare il welfare con i dati dei cittadini. A domani sera.